Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ormai si stampa di tutto in tre dimensioni, dai componenti meccanici per gli aerei alle torte al cioccolato, per non parlare di ogni tipo di prototipo e sempre più oggetti di artigianato. Le stampanti 3D si stanno diffondendo rapidamente e una delle prospettive più affascinanti è che possano essere utilizzate addirittura per stampare case. C'è tutto un filone della ricerca applicata che punta in questa direzione, al punto che si è innescata una sorta di competizione alla quale anche l'Italia sta partecipando, diciamo così, con i suoi campioni nazionali, tra cui certamente spicca il progetto di Massimo Moretti, progetto WASP che abbiamo già incontrato Massimo Moretti qualche tempo fa e con cui anche torniamo a fare il punto su questo settore, su questa sfida così affascinante. Buonasera Moretti. Buonasera. Allora, senta, intanto ci ricordi in estrema sintesi l'obiettivo del progetto WASP. Il progetto WASP si propone di realizzare case a un costo che tende a zero, nel senso che utilizzando il materiale che è presente sul posto, l'energia che è presente sul posto, unito con una conoscenza, con una progettazione intelligente, si possono costruire case a un costo veramente basso, risolvere uno dei problemi futuri del mondo, che è la casa per 4 miliardi di persone che guadagnano meno di 3.000 euro all'anno. Ecco, in particolare voi su cosa state lavorando? Con che materiale pensate di lavorare? Ma è una ricerca continua, comunque lavorare a chilometro zero significa trovare le soluzioni che sono presenti sul territorio. In questo momento chiaramente c'è la terra e l'acqua come componenti di base e poi additivi che possono essere più o meno naturali. I più naturali sono additivi che possono creare delle reazioni e indurire la terra sul momento, oppure ci si può spostare verso la chimica, ma più ci si sposta più ci si allontana dal progetto. Quindi ok, cioè perché la vostra idea è di fare delle case di terra, acqua, magari un po' di fibra vegetale dietro, tipo i vecchi mattoni di fango e paglia, quindi delle case costruite così ed essiccate dal sole sostanzialmente, no? Dal sole, esatto, quindi mi sento di aggiungere e mente, perché sì, la progettazione deve essere... Certo, anzi, adesso ci andiamo su questo. A che punto siete? Cresciamo molto rapidamente. L'altra volta che ci siamo, la volta scorsa, avevamo i primi prototipi. Adesso abbiamo già una stampante alta 4 metri che funziona bene ed estrude materiali fluido densi. E in con cui stampate momento, oggetti 2x2, 2 metri per 2, esatto, okay, esatto, al massimo. È già stata presentata in alcune fiere, non l'ultima, la fiera che si è appena tenuta a qui Milano, a Milano, ma da Expo. Adesso stiamo facendo quella di 12 metri, 12 metri e diametro 6 metri che può costruire una prima unità abitativa. Ecco, e che se va tutto bene potremo vedere nel padiglione italiano dell'Expo, giusto? Sarebbe meglio non dirlo, però sembra che ci siano delle buone possibilità. Speriamo, va bene. Senta, uno dei temi più importanti in questa partita è proprio, la scelta dei materiali, no? Che prospettive apre questa tecnologia rispetto all'utilizzo di materiali? Una stampante 3D utilizza materiali degli impasti e quindi i materiali sono tantissime le possibilità. È chiaro che se usiamo l'intelligenza possiamo andare a cercare materiali nuovi che però richiedono anche uno sforzo mentale, abbinare, provare e fare prova di tenuta. Se invece ci spostiamo come fanno i cinesi, per dire, su materiali conosciuti, su cementi, viene più facile, però noi non amiamo questa strada perché è anche rischiosa. Cioè è rischiosa nel senso che diventa un modo di cementificare più in fretta invece che di cambiare il paradigma, no? nel mondo delle costruzioni. Ecco, materiali nuovi oltre, diciamo, alla terra e all'acqua, su cosa si lavora? Ma guardi, c'è tutta la branca dei geopolimeri che è interessante, sono delle reazioni alcaline della terra per cui la terra diventa roccia. Caspita. Ma se possiamo valutare che per fare una tonnellata di cemento si genera una tonnellata di CO2, per fare una tonnellata di geopolimero c'è un risparmio di CO2 dell'80%. Ok, perché è solo la parte relativa all'additivo praticamente che fa polimerizzare la terra in pratica. Se ho capito bene. Poi l'additivo non si ottiene per reazione ad alta temperatura, quindi se moltiplichiamo questo per i miliardi di persone che necessitano di case ci accorgiamo di che cifre entrano in gioco. Ecco, però senta, perché può cambiare il clima del pianeta. Certo. Ecco, senta, un altro aspetto interessante è questo, diciamo, i materiali costano ma la geometria invece è gratis, cioè non solo si possono usare nuovi materiali ma per esempio si possono utilizzare delle forme, penso alle strutture a nido d'ape e così via, che fatte manualmente sarebbero impensabili. Questo vuol dire proprio andare a capire il significato della stampa 3D, perché la forma che può essere libera aprono una nuova progettazione e un nuovo modo di utilizzare la materia. Per esempio, strutture leggerissime si possono fare, no? Strutture leggere con pochi materiali, con altre tenute, con forme naturali, come tutte le forme delle conchiglie, degli alberi. Quindi l'architettura si sta già avvicinando a questo. Va bene, grazie allora Massimo Moretti, speriamo di vedervi in azione all'Expo. Ci saremo. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.